English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Anche questa sera, come in tutti i sabati estivi, English 24 vi tiene compagnia, riproponendovi una delle nostre interviste. Riascoltiamo insieme le interviste di Radio 24 a personalità, in particolare della cultura e dello spettacolo, con le quali abbiamo parlato ovviamente in inglese. E insieme a Giulia Crivelli riascoltiamo i dialoghi con il nostro commento lessicale e grammaticale. Mentre vi ricordiamo che il nostro English 24 è anche in edicola, questa sera riascoltiamo insieme un'intervista andata in onda il 18 ottobre scorso con una scrittrice che abbiamo incontrato a Milano. Lei è americana, è una famosa giornalista e autrice di un bestseller che parla dell'industria della moda e del lusso. Questa volta parliamo di lusso, di moda. C'erano una volta, ad esempio, degli artigiani bravissimi, Guccio Gucci, Louis Vuitton, creavano prodotti di straordinaria fattura. Ora invece siamo in un'era completamente diversa, quella del lusso globalizzato. Ne parla in Deluxe, come i grandi marchi hanno spento il lusso, la giornalista Dana Thomas. L'ha incontrata a Milano Alessandra Tedesco e le ha chiesto cosa ha scoperto. Sentiamola. What I discovered was that when these companies were owned by families, they were very small companies that focused primarily on making beautiful goods for a limited audience, a niche business for a niche clientele. And when the businessmen took over, their objective was to make beautiful profits, not just beautiful products. And so they switched the focus away from quality and integrity and into big business, globalization, and big profits. Beh, sarebbe interessante fare anche un dibattito su questo argomento con Giulia, che si occupa di moda, ma dobbiamo concentrarci sulla lingua parlata da Dana Thomas. Dana Thomas che appunto ci spiega What I Discovered, cosa ha scoperto. Questo libro ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, e perché lei dice con anche una certa ironia che quando these companies, cioè appunto Guccio Gucci, Louis Vuitton, Guccio Gucci adesso è del colosso PPR, che è un colosso francese che per esempio possiede anche Fnac, per dire, Louis Vuitton è di LVMH, che possiede anche Sephora, quindi sono gruppi dove c'è dentro di tutto. E quindi quando queste big companies were owned, quando queste companies were owned by families, erano possedute da famiglie, era molto diverso. E poi invece sono arrivati i businessmen ed è cambiato tutto. Tra l'altro è cambiato tutto, e lei lo dice con alcune espressioni molto carine, anche un gioco di parole. Sì, dice when the businessmen took over, they switched their focus away from quality and integrity. Quindi to switch the focus away from something vuol dire togliere l'attenzione da qualcosa e portarla su qualcos'altro, quindi toglierla da quality and integrity, e invece di fare beautiful products hanno deciso di fare beautiful profits, cioè invece di appunto concentrarsi sulla bellezza dei prodotti, che vuol dire farli con cura, farli lentamente, farne pochi, ne hanno voluto invece concentrarsi sulla bellezza degli utili, che naturalmente per essere belli devono essere tanti. Non sono più dei prodotti esattamente di nicchia. Sì, prima appunto c'era una limited audience, quindi un pubblico limitato, era un niche business, quindi era un business di nicchia, nicchia, loro lo dicono e lo scrivono alla francese, e una niche clientele, qui è un termine che Dana Thomas usa un po' per darsi un tono, perché nessun americano lo userebbe mai, comunque appunto una clientela di nicchia. Quindi una parola francese pronunciata all'americana, esatto. Vabbè, insomma siamo snob fino in fondo, ma allora chiediamo a Dana Thomas, perché siamo un po' preoccupate, allora il vero lusso è scomparso? Oh no, there's still many luxury products available today, and many of them produced by the major brands. For example, Louis Vuitton, while you can buy lots of handbags and scarves and key rings with the Louis Vuitton logo on it, you can also go to the company and ask them to make them anything that you want, and they will go back to the factory, the original factory outside of Paris, and they will create it for you, one of a kind, just for you. That's luxury. The same with the haute couture houses that still have couture lines, such as Christian Dior or Chanel. They still will make to measure any kind of gown or dress or suit that you want. And many other companies still provide this service as well, and that's true luxury. Allora, tranquilli, il vero lusso esiste ancora. Dobbiamo solo chiarire dov'è, com'è, dove si trova. Sì, e anche soprattutto se ci piace la definizione di Dana Thomas, che per la quale naturalmente il lusso è qualcosa di su misura. Quindi dice che persino i major brands, quindi questi grandi marchi che abbiamo nominato anche prima, fanno ancora vero lusso. Dice, sì certo, potete comprare le loro handbags o keychains, cioè portachiavi e borse, che ricordiamolo, c'è chi potrebbe definire comunque di lusso una borsa Louis Vuitton. Marta e io lo sappiamo bene, perché siamo molto attratte da questo tipo di prodotti, insomma. Sono parecchie centinaia di euro. Comunque, non lei siamo, dice, le sole, Dana, non siamo le sole. Dice, no, si può anche, you can ask them something else, quindi uno può andare da Vuitton e gli si può chiedere di far fare qualche cosa one of a kind, just for you, soltanto per te, fatto su misura, without the logo, già che ci siamo, togliamo il logo perché è volgare evidentemente secondo Dana Thomas, e allora quello è vero lusso. Quindi allora noi andiamo da queste haute couture, è ancora qui un termine francese, houses, e ci fanno qualcosa to measure. Sì, proprio made to measure. Tra l'altro qui c'è una querelle, perché se tu usi questo termine in Inghilterra, in realtà può voler dire che c'è qualcosa di semi pronto che poi tu adatti al cliente. Invece se lo usi in America vuol dire proprio che è fatto su misura. In ogni caso, fatto su misura in qualche modo lo è, perciò made to measure. Tu vai in una haute couture house, per esempio Dior, che sappiamo ha i suoi negozi dove si comprano cose sempre a prezzi molto alti, ma di cosiddetto prêt-à-porter, cioè che sono standard, deve andarti bene quella taglia, o se no vai nell'atelier di alta moda, di haute couture, e lì ti fanno qualsiasi cosa, gown, a suit, a jacket, made to measure, appunto, fatto su misura per te. Hai citato tre tipi di capi di abbigliamento, traducili. Ah sì, scusami, a gown, cioè una grande gonna, ma più che un gown è proprio, sono quelle gonne quasi sempre a sbuffo o insomma molto maestose come quelle d'alta moda, a suit, cioè un vestito che può, però se è per una donna può anche essere quello che noi chiamiamo tailleur, e poi naturalmente la jacket, la giacca, quindi qualsiasi cosa può essere fatto su misura, nel senso che si sceglie il vestito, vengono prese le misure, viene tagliato su proprio su misura del corpo della persona che lo ordina e lo strapaga. Come commentare se non, come dice Dana Thomas, that's true luxury. That's true luxury. Questo è vero lusso. Vabbè, insomma, parola di Dana Thomas, alla quale la nostra Alessandra Tedesco però ha chiesto anche qualcosa che ci viene un po' spontaneo chiedere, perché vogliamo davvero saperlo. Stiamo vivendo in un periodo di grossa crisi. Un tempo si diceva che il lusso resiste a ogni crisi, ma oggi è ancora così? Well, that was in the old days when they were small companies that sold or made products for what we called a sort of recession-proof audience, people who were very, very wealthy. And even when the economic crisis hit, they still had plenty of money. In the last 20 years, luxury brands, since they've been taken over by businessmen and turned into global corporations, have been targeting the middle market. And so we will see a dip in the sale of the logo-covered items, the handbags and scarves and key rings and ties and the products that are made and targeting the middle market. But the high luxury brand items apparently are still going very strong, because there is still that recession-proof audience within the gigantic luxury market today who are still spending a lot of money. Io non so perché non riesco a levarmi dalla testa che questa Dana Thomas è un po' snob nei confronti di questo middle market. Però sì, adesso sentiamo espressione per espressione cosa ha detto l'autrice di Deluxe, come i grandi marchi hanno spento il lusso. Guarda, torniamo al discorso che facevamo prima. È come se Dana Thomas avesse detto a me e a te: voi due non comprerete più borse, ma i super ricchi sì. Perché lei dice, in the old days il luxury era completamente recession proof. Recession proof è come waterproof, cioè waterproof è a prova d'acqua, cioè impermeabile, recession proof è a prova di recessione, perché l'audience era di quel tipo, del discorso di prima, cioè era un audience di nicchia, tutti straricchi. Siccome adesso invece Louis Vuitton, Gucci, Dior eccetera si rivolgono a tutti, comprese me e te, ecco, quel middle market, che per loro è middle market, lì we will see a dip in sales. Dip vuol dire una caduta brusca. Dip vuol dire anche inzuppare, per esempio inzuppare un biscotto nel gelato, però in questo caso è una caduta delle vendite del middle market. E quindi questo middle market, cioè diciamo un pubblico che non è quello del grande lusso, invece subisce dei contraccolpi con la crisi, non compra più questi oggetti oggetti che handbags, sono appunto scarves. esatto le cita degli oggetti molto precisi. Sì, appunto, torniamo sempre io e te, cioè quelle cose che a noi piacciono, cioè le handbags, le scarves, che possiamo permetterci risparmiando moltissimo, ma che possiamo più o meno pensare di permetterci mettendo da parte ogni mese qualcosa, ecco, ce le possiamo dimenticare. Ma invece tutti quei prodotti che sono fuori dal middle market, che sono quello che secondo Dana Thomas è il vero lusso, sempre prodotto dagli stessi che fanno le borse per noi, ma quello non è vero lusso, ecco, quelli saranno they're still going, lei dice apparently they're still going strong, cioè apparentemente, perché naturalmente le crisi possono anche peggiorare, sono ancora molto forti. To go strong vuol dire essere forti, non andare forte. Parla poi di un gigantic market. Sì, dice che appunto questo il mercato del lusso, sia che lo si intenda come quello che poi può essere definito accessible luxury, Dana Thomas non la vuole usare questa parola, ma è appunto lusso accessibile, oppure the true luxury che lo chiama lei, è comunque gigantic, perché sappiamo che per ogni europeo che non può più permettersi una cosa c'è un cinese che se lo può permettere, per ogni americano che non se lo può più permettere ci sarà presto un indiano e così via, o un coreano, o addirittura presto si dice un vietnamita, e quindi, o magari figurati, magari un giorno anche qualche africano. E perciò, insomma, questo gigantic market farà sempre la gioia dei businessmen che run Louis Vuitton, Gucci, Dior e chi più ne ha più ne metta. Quelle persone che, come lei stessa dice, when the economic crisis hit, they still had plenty of money. Plenty of money and they're still spending a lot of money. Cioè hanno molti soldi e continuano, beati loro, a spenderli. È tutto per questa puntata di English 24. Un saluto da Marta Cagnola. L'appuntamento è in edicola con la nostra rivista e in radio ancora sabato prossimo alla stessa ora.